Letture di Radio 24. Secondo i sociologi, con la diffusione dei social network è cresciuta anche l'ansia di sentirsi tagliati fuori, di non trovarsi mai al posto giusto nel momento giusto. Ma la soluzione potrebbe essere proprio nella stessa rete, che può aiutarci a capire l'importanza relativa delle cose belle e importanti che non stiamo facendo. Sabato sera. Nulla in programma se non divano, tisana e televisione. Poi a letto presto. Per la domenica un aperitivo con gli amici o pranzo in famiglia. Si vedrà. È un incubo oppure un sogno? La risposta non cambia solo per l'età o la stanchezza accumulata durante la settimana. Molto dipende da quanto e come riuscite ad apprezzare il non esserci. Non è solo una questione di carattere. Sapere di FOMO, la moderna ansia di chi si sente escluso dalla società. La FOMO, la sigla significa Fear of Missing Out, paura di perdersi qualcosa, riguarda tutti e nasce dal timore di sentirsi tagliati fuori dal proprio gruppo di riferimento. Anche se questa forma di ansia sociale esiste da sempre, la situazione è peggiorata e di molto con l'avvento dei social network. Siamo sempre iperconnessi, potenzialmente possiamo non solo sapere, ma anche vedere tutto quel che fanno i nostri amici o conoscenti. Insomma, non siamo mai stati consapevoli come oggi di quel che succede agli altri. E così, ecco l'identikit della vittima perfetta. Grande appassionato di social network, maschio e possibilmente adolescente, anche se nemmeno gli adulti possono sentirsi del tutto immuni. Ma non è finita qui. Nella definizione di FOMO rientra anche la sgradevole sensazione di aver preso la decisione sbagliata, per poi dover rimpiangere il tempo perso e non godere di quel che si è scelto. Insomma, se vi trovate in un locale con gli amici e controllando il profilo Facebook, non potete fare a meno di pensare che forse dall'altra parte della città c'era una festa molto più divertente, allora è il momento di provare a chiedersi se si sta perdendo la capacità di godere del qui ed ora. Iperconnessi, sommersi dalle informazioni e condannati a non godere davvero di nulla? Non proprio. Coniato dal blogger e imprenditore tecnologico Anil Dash, l'esatto contrario di FOMO è JOMO, che sta per Joy of Missing Out, cioè la gioia, il piacere del non esserci. Nel suo blog Dash racconta di aver lasciato perdere il mondo virtuale per un mese esatto dopo la nascita della sua bambina. Una volta rientrato, si è accorto di non aver perso davvero nulla. Rinunciare o mancare a un evento importante non è un supplizio né un sacrificio, ma una scelta. Secondo Dash, possiamo e dovremmo provare un senso di serenità e di piacere nel sapere che ci sono persone che si stanno divertendo a fare qualcosa che ci sarebbe piaciuto fare, ma a cui abbiamo deciso di rinunciare. La definizione di Dash in breve tempo è rimbalzata su social network e siti, creando una corrente di pensiero alternativa. Dalle liste di cose da fare si è passati in breve tempo alle no list, cioè agli eventi, che ci sembrino imperdibili oppure no, a cui in fondo si può non partecipare senza provare alcun pentimento postumo. Una volta che saremo tutti super connessi e abituati a esserlo, conclude Dash, forse prenderemo coscienza del fatto che c'è un numero infinito di cose belle o interessanti che non stiamo facendo. E a quel punto potremo finalmente rilassarci. Sarà un momento estremamente liberatorio. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Nadia Ferrigo, Esserci o non esserci? È questo il dilemma. Dalla Stampa del 20 ottobre. Letture di Radio 24. Spesso, quando qualcuno occupa abusivamente un appartamento, diventa difficile per il proprietario rientrarne in possesso. Soprattutto quando nelle famiglie degli abusivi ci sono bambini o donne incinte. A volte può essere un problema anche il solo atto di denunciarli, dato che si sono verificati casi in cui gli abusivi hanno reagito alle denunce con violenze e intimidazioni. Ma il caso limite è quello in cui, oltre al danno, c'è anche la beffa, come racconta Gian Antonio Stella in un articolo pubblicato nei giorni scorsi sul Corriere della Sera. Se vi trovaste con una casa occupata da abusivi e vi chiedessero di pagarci tutte le tasse municipali, cosa fareste? A. Chiamereste i carabinieri pretendendo lo sgombero della vostra proprietà. B. Inviereste una furente protesta al comune. C. Prendereste un piede di porco e andreste a scassare la serratura dell'immobile per riprendervi i vostri locali. Esclusa questa terza ipotesi, ovviamente, la signora Francesca Taipei, proprietaria con i cugini di un negozio vuoto al piano terra di una palazzina a due passi da Palazzo dei Normanni a Palermo, ha fatto quel che doveva fare. Saputo della violazione di domicilio, è andata alla più vicina stazione dei carabinieri, a Piazza Marina, e ha firmato una denuncia per occupazione abusiva di fabbricato. Era l'8 agosto 2012. Pochi giorni prima, suo cugino, Lucio Guarino, aveva cercato di risolvere la cosa alla buona, andando con un carabiniere all'indirizzo del magazzino occupato, nella speranza che gli abusivi avessero il buon senso di togliersi di turno. Ma che? Non solo non gli avevano aperto la porta, ma si era scoperto che avevano cambiato la serratura. Da allora sono passati più di 2 anni, e per la terza volta, dopo il 2012 e il 2013, il comune è tornato a batter cassa per farsi pagare l'IMUP. Alta, perché si tratta di un esercizio commerciale. Non è giusto, hanno protestato i proprietari. Lo Stato e il comune rifiutano di fare il loro dovere sgomberando i locali occupati e pretendono pure dei soldi da noi, cornuti e mazziati. Risposta del comune, firmata dal dirigente Leonardo Brucato, in stretto burocratese. In riferimento alla richiesta in oggetto indicata, si comunica che la stessa non può essere accolta. Infatti, ai sensi dell'articolo 3 del DLVO 504 del 92, obbligato al pagamento del tributo, è il proprietario degli immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superfici. Quindi, poiché dall'esame della documentazione allegata alla sopra citata istanza non risulta né il trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto di accertamento né la costituzione di un diritto reale in capo ad altro soggetto, si invita la signoria vostra a considerare l'immobile soggetto al tributo IMUP e si invita al pagamento entro i termini di legge. Distinti saluti. Evviva la legalità! E volete conoscere la beffa nella beffa? Un pezzo di quel palazzo ristrutturato appartiene a Lucio Guarino, direttore del Consorzio Sviluppo e Legalità di Corleone, che gestisce beni confiscati alla mafia. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Gian Antonio Stella, La beffa delle tasse sull'immobile occupato, dal Corriere della Sera del 29 ottobre. Viaggio per conto di una grande azienda, la Fratelli di Vita Vissuta. Così si presenta il protagonista della raccolta di saggi The Uncommercial Traveler, che raccoglie testi scritti da Charles Dickens tra il 1860 e il 1869 e che ora viene per la prima volta pubblicata in Italia. Il titolo scelto per l'edizione italiana è Il viaggiatore senza scopo e rende l'idea che Dickens voleva dare di questi resoconti di viaggi, compiuti non per lavoro, ma per il puro piacere di osservare. In uno di questi saggi il protagonista si trova in Italia, paese che Dickens conosceva bene, avendovi trascorso diversi mesi nel 1844. Il racconto è liberamente ispirato a un episodio del Risorgimento italiano. Protagonista è Carlo Poerio, un prigioniero politico che venne liberato grazie all'intercessione del parlamentare inglese William Gladstone. La sollevazione del popolo italiano dal giogo di indicibili ingiustizie e il tardivo prorompere del giorno, dopo la lunga notte che ha ottenebrato quella splendida nazione, hanno fatto sì che negli ultimi tempi la mia mente si soffermasse spesso sui miei piccoli vagabondaggi per l'Italia. Vi ebbe parte un curioso piccolo dramma, nel quale il ruolo da me sostenuto fu talmente secondario che mi è possibile raccontare la storia senza timore alcuno di essere sospettato di volermi mettere in mostra. Si tratta di una storia rigorosamente vera. Sono da poco arrivato in una sera d'estate presso una certa cittadina del Mediterraneo. Ho un incarico che riguarda lui e ho chiesto informazioni su di lui. Questo incarico me lo porto appresso in giro per l'Italia da diversi mesi. Prima che lasciassi l'Inghilterra, venne da me una sera un generoso e garbato nobile inglese con la seguente richiesta.